voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Who said that? Who the fuck said that? Who's the slimy little communist shit twinkle toed cocksucker down here who just signed his own death warrant? Nobody, huh? The very fucking godmother said it. I'm fucking standing. I will PT you all until you fucking die. I'll PT you until you're asshole for sucking buttermilk. There's a box full of shower gels I've left around the world in the toilets and bathrooms I've been. Chips of my youth falling off along the way. It's been a long time falling down. Fuck you, I love you, there you go. Three little words on a mobile phone. When are you coming home? When are you coming home? Don't wanna be alone. I've been careless with my friends, even harder on myself. There's a few stars in the sky I've killed. Pieces of my heart broken off along the way. It's been a long time falling down. Fuck you, I love you, there you go. Three little words on a mobile phone. When are you coming home? When are you coming home? Don't wanna be alone. Prima parte di Eclettica di quest'oggi si era chiusa con At Swim Two Birds, il progetto che possiamo considerare una costola dei Mongol Fear Brothers, progetto già presentato la scorsa settimana all'interno di Eclettica. Invece questa seconda parte si è aperta con un brano nella sua versione non ripulita, Fuck It, I Love You, ne esiste una il cui titolo è Beep Beep, I Love You, proprio così, letterale. Ed ora invece un vecchio disco dei The Blow, che tanto conoscono gli ascoltatori di Eclettica, che però anche in tanti altri, al di là di Eclettica, hanno imparato ad apprezzare con il loro ultimo album, The Blow, che quindi vengono ristampate. Andiamo a sentire una delle loro primissime cose, Come On Petunia. Every little thing she does is magic. Everything she do just turns me on. And even though my life before was tragic. Now I know my love for her goes on. Every little thing she does is magic. Everything she do just turns me on. And even though my life before was tragic, now I know my love for her goes on. Come on, pretend you thought in your head it would all be so easy if you could be led to the cave where I hide you in linens and frames. And in new combinations I've made of our names, the tiny hole, yeah, but you'd fit if I sliced you up, you little bitty. I'd sliver and splice you, and then you'd be Manny, and I'd be the one who is privy to love you and show you the fun. She does is magic. Everything she do just turns me on. And even though my life before was tragic, now I know my love for her goes on. Jamie stood on the stoop and he challenged his homies to go get some girlfriends and locate their yonis. The waters are parting and time's getting heated. The boys needed friendship, the beat needed needed. Her dress was a ship at sail. Her knees were the water pail. This was survival and she was the kit. You could die of thirst if the girls won't give you sips. She does is magic. Everything she do just turns me on. Le case a tre piani in città non erano più di una dozzina. Quella in cui abitavamo noi, le due caserme dell'esercito e qualche edificio pubblico. Più tardi, per ospitare il comando del corpo d'armata, fu costruito un altro palazzo di tre piani, dotato anche di ascensore elettrico. Ma la nostra casa sul corso aveva un aspetto davvero metropolitano. Era un autentico palazzo, con un'ampia facciata, un vasto androne e una larga scalinata perennemente esposta alle correnti d'aria, dove i venditori ambulanti, con i loro mantelli di bigello e i berretti in pelle di montone, si accampavano, seduti sugli scalini per mattinate intere, sbocconcellando lardo, fumando la pipa e sputacchiando in giro. Questo era l'incipit di Confessioni di un borghese, di Sándor Márai. We'll be right back. got your name. I got your ass. You will not laugh. You will not cry. You will learn by the numbers. I will teach you. Now get up. Get on your feet. Catch. Quello che mi appresto a dire è ovviamente a beneficio di coloro che ascoltano Eclettica da poco tempo, magari proprio solo da oggi. Per riuscire a comprendere completamente questa trasmissione bisogna per forza di cose fare riferimento alle playlist che sono disponibili o sul sito myspace.com/eclettica oppure ricevute direttamente nella casella di posta personale se iscritti alla lista nera. Per farlo basta mandare un mail a giulio@radiorockfm.com. Playlist che contengono tutto il dettaglio settimana per settimana di cosa serve per fare Eclettica, di quali sono gli ingredienti che costituiscono il piatto Eclettica giorno per giorno di ogni settimana, cioè canzoni, spezzoni cinematografici e letture. Non so che cosa mi riservi ancora il Signore, ma prima di morire voglio narrare la storia del giorno in cui Laius venne per l'ultima volta a trovarmi e mi spogliò di tutti i miei beni. Rimando ormai da 3 anni la stesura di questi appunti, ora invece mi pare che una voce contro la quale mi sento impotente mi esorti a descrivere gli eventi di quella giornata e a riferire tutto ciò che so di Laius, perché è mio dovere e il tempo a mia disposizione è contato. È una voce inequivocabile, dunque obbedisco nel nome del Signore. Questo era l'incipit dell'eredità di Esther di Sándor Márai. Eclettica. Stagione numero 13, settimana numero 31, volume numero 1. Indice. Fujiya e Miyagi. Un Nadare, Alex Delivery, At Swim to Birds, Malcolm Middleton, The Blow, 120 Days, Forget Cassettes, The Go Find, Tar Water.